Il punto di Stefano Folli. Un passo dopo l'altro, in modo inesorabile, il PD di Bersani si avvia all'accordo con Berlusconi per eleggere il Presidente della Repubblica in una delle prime tre votazioni in cui vale la maggioranza dei due terzi, forse anche alla prima. È l'unica strada per mantenere il controllo della situazione e non farsi imporre poi il capo dello Stato da Beppe Grillo. Berlusconi lo sa e aspetta, pone anche condizioni come nell'intervista di stamane a Repubblica, ma sono condizioni blande. Nessun presidente può essere vincolato in partenza alla realizzazione di una formula politica, la grande coalizione. Saranno le circostanze a guidarlo. E in fondo Berlusconi, che nega di aspirare al salvacondotto giudiziario, peraltro impossibile nello Stato di diritto, parla di larghe intese, una definizione che copre molte ipotesi, compreso quel governo di scopo affidato a una personalità neutra o quasi, che oggi anche Rosy Bindi accetta.